Ancora più saldi a MacArthur Glen la Reggia Designer Outlet. Non lasciarti scappare gli extra sconti sui prezzi outlet dei fashion brand più amati e vivi tutte le emozioni di un'estate di shopping. Vieni a trovarci, MacArthur Glen, Destination Joy. E scopri Art Safari, un'invasione di animali colorati che farà divertire grandi e piccini. Runtime Radio, la talk radio geek, vi dà il benvenuto. Runtime Radio presenta Quando eravamo il futuro. Un programma antologico, monodirezionale e spazio-temporalmente dislocato a cura di Carlo Sant'Agostino, Roberto Tomaiuolo, Davide Gatti e Simone Pizzi. E beh, cari amici di Runtime Radio, benvenuti. Sono poco dopo le ore 21:30, così come avevamo promesso, inizia questa puntata speciale di Natale di Quando eravamo futuro qui su www.runtimeradio.it, ed è una puntata appunto speciale perché sarà un po' diversa dal solito, ma soprattutto il contesto sarà importante, siccome che il setting è la cena di Natale degli amici di Quando eravamo futuro, vi conviene seguire anche la chat diretta, non soltanto dirette runtime su Telegram, telegram.me/dirette runtime, non soltanto per interagire con noi e dire magari le vostre, insomma, esprimere considerazioni, ma soprattutto perché avrete modo di vedere successivamente anche magari i regali che ci faremo durante questa serata. Il 23 dicembre del 1980, noi abbiamo la stessa età che abbiamo oggi, ma facciamo questo viaggio indietro nel tempo e quindi, insomma, vi invito ad entrare. Allora, le tartine sono pronte, qui l'antipasto c'è, tutto abbastanza a posto, le luci, sì, dai, insomma, si può stare, l'albero fa abbastanza schifo, quindi, insomma, si può assolutamente fare, poi, insomma, oramai dovrebbero essere quasi a momenti. Ecco, è arrivato qualcuno, vediamo un po'. Carlo, ciao Carlo, ciao, benvenuto. Bella Carlo, Natale, come stai? Buon Natale. Vabbè, ciao, buona. Troppo... è un attimo perché tre scatoloni non ci passano. Addirittura. Sono grossi. Sarà proprio Babbo Natale allora. No, appoggio qua. Vai, appoggia sotto l'albero, sotto che fa schifo. E uno piccolino. Ok, perfetto. Ma aspetta che risuonano, chi è? Davide, ciao, benvenuto. Uè, buon Natale, auguri. Pure te, troppo entusiasmo, Davide, meno. Allora, tutto bene? Tutto benissimo, vedi, è tutto pronto. Non so cosa mangerai tu questa sera, però ho preparato delle cose alternative. Sto iniziando a mangiare. No, è così, bravo, lui con le patatine, ma tanto mangia le patatine. Io te l'ho detto, se c'è solo pesce, e sì. Non lo so, poi qualcosa mi sono inventato. Lo mangio io. Mi dai una mano a portare esatto. Dentro questa roba. Ok, va bene. Questa scatola è pesantissima. Ah, c'è pure Roberto, dai, dagli una mano, Roberto. Pure tu c'hai i tuoi pacchi. Io ho fatto dei regali, ma non so, così ingombranti come dite voi, insomma, quindi. Beh, uno solo è grosso, poi ce ne sono varie. Ciao a tutti, Roberto. Più entusiasmo. Pure tu c'hai l'entusiasmo. No, entusiasmo, poco entusiasmo, dai ragazzi. Tanti auguri, buon Natale, eccomi, salve, dice Michela in chat, ma noi questa cosa rompiamo la quarta parete così a casaccio. Va bene ragazzi, niente, intanto mangiate delle tartine, poi quando siete pronti e vi siete un attimo rilassati. Sono già finite le tartine, vabbè. Allora possiamo iniziare proprio con l'antipasto che poi... Sì, dai. Ma io non lo so, devo dire la verità. Allora Davide, ascoltami, io proprio, sai, in coscienza devo dire che ti voglio bene e queste cose le faccio solo per te perché... Onestamente un po' rompe le balle, no? Cioè, nel senso, il fatto di mettersi a fare preparazioni diverse le fai solo per le persone a cui vuoi bene, insomma, non è che lo fai per tutti. Quindi per te ti ho preparato della pizza margherita, cioè dei pizzettini di pizza margherita a taglio. Grazie. Perché insomma so che tu questo antipasto che aspettate un secondo che adesso arriva, eh. questo primo antipasto, che è un antipasto, insomma, va molto di moda, cioè nel senso, visto che alla fine aspettate, perché non mi sono perso la chat nostra, che non c'entra niente, insomma. Allora, eccoci qua. Praticamente questo va molto di moda. Pare che, insomma, nei vari pub, nei ristoranti, insomma, prima dei ricevimenti, quando ci sono i matrimoni, insomma, è una cosa che, ecco, spero che vi piaccia. Un bel cocktail di gamberi, che insomma, è un classico. Un classicone. Cocktail di gamberi. È pesce, ma va bene. È pesce, va bene, però è immerso nella maionese, quindi alla fine è più il sapore della maionese, insomma, del gambero, insomma. A te, Davide, piace? Ma che è quella roba verde? Se avessero la lische, non ha occhi, non ha gambe, non ha... va bene. Sì, e no, se, la roba verde, secondo me, è la foto che è un po' de merda, però. altrimenti sarebbe tipo andata male la maionese, probabilmente, quindi potrebbe prendervi la salmonella, cose del genere, insomma. No, quella scusa, non hai chiesto, questa qua è la salsa speciale al lime. Al lime, giusto, va bene, insomma, cocktail di... Wasabi, guarda, penso che negli anni 80 non sappiamo neanche come si scriveva, penso, insomma, poi vedete voi. Sì, nell'80 sicuro, non sapeva neanche che esistesse il wasabi, almeno io sicuramente. Adesso sfortunatamente sappiamo che esiste. Sì, purtroppo diventa una droga dopo. Il wasabi, mamma mia. Qui c'è gente che, pur non sapendo, spoilera in chat, salutiamo Claudio ovviamente. Vabbè, il cocktail di gamberi è un classicone degli anni 80, non c'era ricevimento, buffet, matrimonio, occasioni particolari dove non c'era una bella coppa di cocktail di gamberi, che di solito veniva servito, appunto, questi gamberi alla fine immersi nella maionese, cioè non era una cosa, però è una cosa, faceva chic, perché era più la presentazione, no, della cosa che il piatto gli in sé. Gli anni 80 erano soprattutto quello, nel cibo, io almeno dai ricordi che ho, negli anni 80 c'è stato all'inizio di dire il cibo bello da vedere, però faceva cagare da mangiare, però era bello da vedere. Non è vero. Poi a me il cocktail dei gamberi, tutto sommato, poi non è mi dispiace. No, vabbè, i cocktail di banga erano male, però c'erano altre cose che... ma dipende anche un po' sempre dalla situazione regionale in cui ieri, perché anche sì, non so, mo adesso nell'universo, però il cocktail era universale, effettivamente. Dai, sì, io l'ho visto veramente in tante situazioni, anzi devo dire la verità, l'ho visto anche a dei compleanni, fino penso anche metà degli anni 90, anche a compleanni, diciottesimi compleanni, cioè era proprio una cosa che non c'era una ricorrenza dove non c'è stato il cocktail dei gamberi che faceva figo, capito, cioè nel senso, sì, poi c'era le tartine col paté de foie gras. Bravo, esatto, che ti sei spazzato prima tu, quindi non ho fatto in tempo. E niente, per esempio, Roberto, ti piaceva il cocktail di gamberi? Ti piace il cocktail di gamberi? Lo gradisci? Lo stai gradendo? mi piace il cocktail di gamberi, mi piace. Mi piacciono di più i gamberetti piccolini, per la verità, però... È vero, secondo me si mangia meglio, no? Pure quelli già sgusciati, a dirti il vero, perché molti poi te la facevano un po' troppo sofisticata la questione. Cioè, il cocktail dei gamberi c'era il cucchiaio e magnavi, cioè. Ho un ricordo bellissimo di una mia carissima amica che mi imboccava il cocktail di gamberi mentre io ero già completamente ubriaco, appoggiato a una parete, quindi nel senso, e lei non era nemmeno l'antipasto del ubriaco. No, proprio già fritti, proprio de brutto. E io in particolare mi ricordo che era il 1990 e mi ricordo che c'era Italia-Irlanda dei mondiali di calcio, quindi insomma, vabbè, per essere ubriaco già ti ricordi troppo, perché no, perché mi ricordavo il prima e il dopo, che non mi ricordo più niente dopo, Cioè. Però mi ricordo che lei mi imboccava dicendo: devi mangiare, perché sennò ti senti male. E ero già satollo come ti sei ritrovato alla fine di quella situazione? Guarda, il giorno dopo è stato terribile, poi mi ricordo che praticamente non lo so, poi noi eravamo preoccupati perché era il compleanno di questa nostra amica, che, alla quale tenevamo molto, e c'erano questi genitori molto aristocratici, molto, erano ricconi questi. Infatti, villa in piccola piscina, sai, proprio il classico ricevimento che tu vedevi nelle serie televisive, insomma. E io ero preoccupato perché erano gente che mi conoscevano da quando ero piccolo e mi volevano un bene dell'anima. Ed ero preoccupato perché dico: capirai, mo l'avrò offesi, l'avrò. E invece no, ci siamo tanto divertiti, siete stati troppo divertenti, tipo ad esempio quando siamo cascati tutti in piscina vestiti, ad esempio, perché insomma eravamo ubriachi. Io pensavo che fosse finito un po' marrone come al solito. No, ero molto giovane, il marronismo è arrivato per altri fattori più in là, insomma, quindi e niente, questo è un po' la situazione. Però insomma, quando avete finito poi me lo dite, che sì, no, che passiamo al primo. Io ho mangiato anche il bicchiere di vetro. Esatto, quindi passiamo al primo, però ragazzi, non c'è di piano, perché non è che poi insomma, sì che è vero che poi dobbiamo tornare a casa, insomma, le nostre famiglie ci aspettano. Però il primo forse ti piace, Davide, non lo so, però eventualmente ti ho preparato. Vediamo se inizia per L, è quello che c'è sempre. L? L, no, non è. No, inizia per L. Non no, inizia. Va bene, vai. Però me lo decide dopo, casomai. Comunque ci sono delle pennette alla vodka fatte da me. Inizia per L, le pennette alla vodka. Vabbè, allora qualsiasi cosa inizia per L. Pennetta alla vodka, insomma, voglio dire, in realtà col pomodoro. Sì, anche col pomodoro, sì. Diciamo dipende. Allora, intanto ero indeciso tra due portate importanti, tipo le pennette al salmone o le pennette alla vodka, che erano il must proprio del 1990, cioè non c'era posto dove 80, scusa. Cioè non c'erano posti dove non trovavi questi piatti. In particolare poi dopo sono stati proprio il grido fondamentale dei pub anche negli anni 90, quindi alla fine cioè, si trovavano, sono resistite per un po' di tempo fino a che ovviamente sono passate un po' di moda. E le lasagne. vabbè, ma le lasagne è un'altra cosa. Da me c'era sempre questa, c'era la lasagna. Però diciamo che noi di notte andavamo a mangiare le pennette. Esatto, quando tante volte capitava che magari uno aveva fatto serata, c'era ancora il pub aperto con la cucina e magari si facevano le pennette. Diciamo che quelle al salmone erano un po' più delicate, mentre che quelle alla vodka, perché voi sapete, un po' più forte. Parti tipo alle 2 di notte, il soffrittino, la sfumata con la vodka, ma poi alla fine c'era lo speck, c'era la cipolla e in alcuni ovviamente la panna, che era immancabile, immancabile. Esatto, io me le ricordo tutte con la panna, erano immancabili sia col pomodoro che in bianco, erano comunque con la panna era assolutamente immancabile in questo tipo di primi piatti e a me piacevano. Andavate anche voi tipo alle 2:30 a fare la seconda cena? Sì, la spaghettata di mezzanotte, certo, grande classico. La spaghettata, se eri fuori, se eri dentro, se eri fuori si andava da Luini o cose del genere a prendere i panzerotti a Milano. Andava a mangiare le penne. Sì, anche la pasta asciutta, beh, ricordo comunque a mezzanotte era abbastanza... Anche alle 2. Le 2 di no. Beh, poi dopo quando diventava tardi, iniziavi a cercare i posti che aprivano presto per i krafen, le brioche. Sì, eccetera. certo. Tipo alle 4 di mattina. La serata non finiva se non andavi a fare la botta dal dai forni che lavoravano già alle 3 del mattino per preparare ovviamente i cornetti della mattina dopo, e avevano sempre una parte che era dedicata al fatto che arrivavano le persone. Mi ricordo che una volta i ragazzacci sì mi ricordo una volta, sempre ubriaco, perché io faccio questa cosa che sono ubriaco, sono entrato dentro uno di questi qua e indicando a casaccio gli ho fatto I scansis block tut flakburg cinken, e quello fa vuoi cornetti con la Nutella. Perché la cosa importante è la prontezza dei riflessi, io devo dire, veramente c'è gente che è geniale proprio, assolutamente. Ah, vuoi prendere la Nutella? Sì, va bene, via. Sì. Quindi ti piacciono, Davide, le pennette alla vodka? Sì, sono contento, fa piacere, perché sennò ti avevo preparato dei rigatoni al pomodoro semplice, insomma, non sapevo cosa fare. No, a me basta che ci mettete robe di pesce strano, un brodaglio, va bene. Il pesce strano. Adesso vediamo i prossimi piatti. Ma no, guarda, non c'è tanto pesce, devo dire la verità, anzi. Ah, va bene. Non so se il prossimo piatto ti piacerà, però non c'è. Comunque, Roberto, qualche ricordo sulle pennette alla vodka? Che poi erano facili da preparare, quindi era quella la cosa comoda. No, allora io ti dico, nella grandissima... Io uscivo con una compagnia molto, molto grande, a volte anche in 20, 25, cose apocalittiche. E molto spesso, quasi sempre, soprattutto nel weekend, facevamo, come ti dicevo, la seconda cena, tarda, nelle zone dove andavamo noi i pub chiudevano alle 4, quindi il problema non c'era, e andavamo a mangiare tipo alle 2, 2 e mezza tranquillamente. Con, all'epoca si poteva fare senza ingrassare esageratamente, adesso basta all'epoca. Guardarle invece per... oggi si può fare perché non ingrassiamo come oggi. Ingrasseranno nel prossimo futuro, giustamente, hai ragione. Esatto. In realtà ci si muoveva, questo bisogna dire, ci si muoveva molto di più e si mangiava molto di meno, e quindi quella volta che facevi la buffata al massimo ti riempivi, cioè non è che dicevi ah, oh, cazzo sono ingrassato, cioè giusto durante le feste, insomma, non è che c'era tutta sta cosa. E poi sono arrivati i McDonald's, lì secondo me è stato un po' la devastazione. Burghi, prima i burghi. Burghi italiani, Italy, e via dicendo. Esatto. Tu invece, io sapete che recentemente con Michele abbiamo detto, sai, una sera ce le facciamo, no, una sera, una volta, una domenica, un sabato a pranzo ce le facciamo le pennette alla vodka, perché è un po' un ricordo anche, insomma, e poi ci piacciono, cioè, a me comunque le piacciono. Le fai veramente più raramente perché cucinare con la panna oggi è veramente, ti senti a disagio con te stesso, diciamo. Sì. Qua da noi, da queste parti, va molto anche il risotto al Franciacorta, che poi esiste anche il risotto allo champagne, certo. La ricetta originale. Alla birra anche, noi facciamo, faccio risotto alla birra, quindi va bene. Poi se quando avete finito lo dite che c'è un secondo primo, c'è un secondo primo. Siamo quando abbiamo finito, abbiamo già mangiato. Io non so, a parte la lasagna, diciamo che quasi sempre. Ma quando cominciamo a aprire i regali? Alla fine è un po' per no, alla fine del secondo primo. Ok, poi dopo. Okay. Comunque, noi mangiavamo le pennette, però come si chiamavano? Boh, come le chiamate voi? Comunque avevano dentro i funghi e quindi alla boscaiola, la boscaiola. La boscaiola è un altro classico con la panna, in effetti, perché e girava anche quella, devo dire. Funghi, salsiccia, piselli e panna. Sì, esatto. Proprio così. O paglia e fieno anche. Proprio così. Però paglia e fieno era la pasta, che era verde e bianca, no? Nel senso già, però sì, proprio esatto, invece il condimento era con quella, sì, la boscaiola, vodka e salmone spaccavano. La faccia uguale a quella che tu hai messo tu lì, solo che c'aveva anche i funghi, fondamentalmente, insomma. Sì. E poi vabbè, era il sugo fatto da mia mamma, che vuol dire che era un sugo che aveva una densità come plutonio, non era il sugo quello standard, c'era, c'aveva anche gli isotopi radioattivi dentro, diciamo. Stava sulla pentola 2 giorni quel sugo, così doveva essere, scusa, una cosa. Quando vino fuori un sugo che era tipo 1 milione di calorie al cucchiaio, ma era più buono. Beh, e per poi, esempio, i ragù più li cuoci è meglio, insomma, quindi. Era così concentrato che pitturava anche la ceramica dei piatti. Poi noi ci mettavamo, mia mamma faceva il sugo, tutta la roba lì, poi tutto il sugo lo buttava nel pentolone insieme a tutta la pasta, mescolava e poi metteva tipo 500 g di grana tritato dentro. Certo, è giusto, è giusto. E girava, e poi arrivava sto piatto che era tipo 1 chilo l'uno, che avevo già finito dopo quel piatto lì, cioè basta. E avevamo ancora portate per 2 giorni. Vabbè, ragazzi, io comunque l'altro giorno sono stato a un ristorante molto carino, aperto da poco qui a Roma, vicino da me, vicino Piazza di Roma. E è figo perché praticamente loro fanno 100 primi, cioè fanno 100 risotti diversi. Ah, e sì, quindi anche qua ne ha aperto uno. Quindi praticamente, cioè, questo è praticamente, pare proprio l'ultima moda. Io mi sono fatto spiegare un po' dal cuoco come si preparava, e allora ve l'ho preparato anche a voi. E cioè questo è, va super di moda, raga. Questo spacca. Tu fai, sì, lo so cos'è, lo so. Fai questo. Beh, ve l'ho messo davanti. Il risotto alle fragole era proprio, cioè, lui. Tu facevi il risotto alle fragole, eri un figo perché c'era proprio c'era anche il risotto ai petali di rosa, anche ai petali di rosa, è vero assolutamente, sì. Però, insomma, e c'era pure sto 100 risotti, me lo ricordo, cara. Sì, c'erano questi locali, le risotterie, che facevano, sì, tutti questi, che poi facevano tutti assaggini strani. Tutti assaggini che poi erano, esatto, buoni comunque alla fine. È un po' come il giro pizza adesso, però là era il giro risotto. Il giro risotto c'era da noi, questo locale si chiamava La Bomboniera, che ti faceva praticamente, fino a che tu non dicevi basta, ti portava tutti questi assaggi di prima. E devo dire che il risotto alla fragola a me non mi dispiaceva, perché questo contrasto esotico, perché comunque era una cosa, un sapore al quale non eri abituato. Noi eravamo molto tradizionali, no, fino agli anni 70 a mangiare le cose, poi fondamentalmente, no? E quindi quando arrivavano queste cose un po' più innovative, prima le guardavi un po' sottecchi, così stai un po' non mi convince queste cose troppo moderne, queste schifezze, poi dopo te le mangiavi, erano buone, perché insomma comunque risotto alla fragola fatto bene è comunque buono, cioè nel senso, e anche sì. Questa è un'altra cosa che è completamente sparita, cioè nel senso, mi è capitato, sì, devo dire, recentemente di averlo intravisto da qualche parte, ma era comunque un locale particolare, cioè nel senso, su internet le ricette le trovi ancora, sì, c'è di questo, c'è del risotto ai petali di rosa, petali e non peti di rosa, perché il peti di rosa, rosa è famoso, sì, cioè, sì, risotto ai peti di rosa, e rosa vieni qua, ma che cos'è? Che cos'è? Scusa, ma che vergogna! Aiuto, comunque mi hai fatto venire in mente che 100 risotti mi hai aperto un cassetto, ma io vi dirò un altro nome, però era degli anni 90, vediamo se ve lo ricordate, il Pastarito. Pastarito sì, però quello è no, più moderno, cioè, già siamo negli anni 2000 secondo me. Ma può darsi, 90, sì, 90, fine anni 90. Anni 90, invece ce n'era uno, c'era il Pastarito e il Pizzarito. Pastarito e Pizzarito scomparsi, non esistono. Allora c'era Pastarito, Pastarito, Pizzarito e pure quello risotto rito, c'era anche. Sì, Risorito. Risorito, sì, una cosa, sì. No, dove andavo io negli anni 80 con gli amici, era un locale che adesso mi sfugge il nome, dove portavano 30 portate, 30, a un prezzo non mi ricordo. Claudio dice Pastarito del 95, quindi giusto, sì, esattamente, sì. 95. 90. Sì, dai, comunque io nel 2000 ancora, cioè, nel senso c'erano da Roma, 2000, 2005. Sì, 2000, fino al 2010. 2010, cioè, esatto, sì, sì. 2010, e poi tra l'altro lo sai che era un franchising veramente importante, nel senso che loro ti davano tutto completamente, dalle cucine ai cuochi, praticamente al sistema amministrativo, ti davano tutto, cioè nel senso tu anche se non eri un imprenditore, non sapevi come cazzo si faceva, ti davano tutto loro, però è vero pure che tu gli dovevi restituire 20.000 euro al mese e quello che guadagnavi sopra i 20.000 euro al mese era roba tua. Quello che se andavi pari erano cazzi tuoi, cioè nel senso, lui dovevi da quei soldi lì. È così. Vabbè, era un sistema che ha funzionato perché ce n'erano tantissimi, poi dopo sì, non lo so cosa è successo, se è fallito o i tempi sono cambiati, no? Non so per quale motivo è scomparso, ma... Comunque è sparito pure sto risotto, ve lo siete tracannato subito. Sì, però ne ha fatto anche poco. Però io vorrei sapere un attimo da Roberto. Buono, ma poco. Da Roberto, se tu avevi già mangiato questo risotto. No, ti confesso di no. Il risotto con le fragole, no. Te mancava, vedi, ti facciamo mai preso. Ti facciamo conoscere le cose importanti. Ma neanche il posto che si chiamava 100 risotti lo conoscevi a Milano? Ci sono andato, sì. Non me lo ricordo. Ma forse Roberto non è un fan dei risotti, diciamo così. No, invece mi piacciono, però 100 risotti non lo ricordo. Ti ripeto, c'era un altro locale dove andavo quando ero all'università, quindi un pochino più avanti, ma c'era anche prima, dove ti davano 30 portate. Che quasi nessuno riusciva ad arrivare alla fine, ovviamente. No, infatti succede. Ma era una roba terrificante, c'erano anche 6-7 risotti. Poi io la portata le faccio come di questo risotto. Dilettanti, Carlo, dilettanti. Risotti, di questi 100 risotti vi racconto solo velocemente un aneddoto. Avevo un amico che aveva uno studio di registrazione, un giorno è venuto un direttore d'orchestra giapponese. Questo posto andava così di moda, era così famoso, gettonato, che l'ha portato lì, no? E il tizio giapponese, quando si è trovato in questo posto, ha detto: ma io sono venuto in Italia per mangiare qualcosa di diverso, non c'è qualcos'altro, non si può avere degli spaghetti? Fa: no, qua ci sono solo risotti. È rimasto delusissimo questo giapponese. Allora, di un male giapponese con riso, vivono di riso, arriva in Italia e gli dai il riso, devi dargli la pasta. Esatto, però aspetta, il riso è una cosa, il risotto è un'altra, però ragazzi. Cioè, noi abbiamo trasformato il riso, l'abbiamo fatto diventare un'opera d'arte. Loro alla fine, esatto, insomma, no, è vero, però il giapponese mi ha detto che ci è rimasto un po' male, perché lui voleva mangiare qualcosa di italiano diverso. senso, il classico, sai, per i giapponesi la roba italiana è la pizza, lo spaghetto, non è il riso, il risotto per loro è riso, per loro è riso rovinato. Noi mangiamo il mandolino a pranzo. Esatto, le gondole anche. Allora ragazzi, io direi a questo punto ci prendiamo un attimo di pausa, perché sennò ci congestioniamo un pochino, no? E io inizierei da Roberto, cioè adesso io do il mio regalo a Roberto, poi Carlo e Davide danno il proprio regalo a Roberto. Perché iniziamo a Roberto? Perché Roberto è l'ultimo, insomma, è l'ultimo arrivato, è il più giovane, tra virgolette, fra di noi. Bimbo. No, giovane nel senso, in termini di runtime, è questo che intendo dire, insomma. Quindi io do il mio primo regalo a Roberto. E poi ci fai vedere l'immagine, giusto? Sì, svela tutto, mi raccomando. No, l'immagine. No, però aspetta aspetta un attimo che devo fare il suono dello scartamento. Dello scatolo, lo scatolo. Esatto. E allora, vai Roberto, scarta. Scarta. Vabbè, basta scartare, basta. Ti piace Roberto? Perché io so che tu ci tieni tanto, perché sei una persona che si cura molto, tiene molto insomma al proprio guardaroba, sei una persona insomma che insomma penso ci tiene tanto, quindi come facevi a saperlo, guarda, incredibile. Un bel maglione di cashmere, vero cashmere, cioè proprio in pieno stile anni 80, io penso che ti piaccia insomma, una cosa che poi so che ti piace stare anche al caldo, no, giusto? Perché ridi, scusa? È bellissimo, è alla moda, cioè questo è proprio l'ultimo urlo, cioè una cosa. Che probabilmente ce l'ha proprio ancora, mi sa. Esatto. Guarda, non ne dubito, non so perché, ma non ne dubito. Vabbè, io spero che ti piaccia, insomma, questo è grazie, è un pensiero dedicato a una delle, forse l'unica persona che ha uno stile all'interno di Runtime Radio, quindi quindi gli diamo insomma. Poi non so se mi ringrazierai ancora quando vedrai il mio, però grazie. Pazienza, d'altronde i regali sono pensieri, sono anche giochi tutto sommato. E Davide, dagli il tuo, va. Sì, voi sapete che io sono di famiglia benestante, quindi ho sempre ho certe possibilità, anche se in questo caso, vabbè, mi dispiace che non è uno degli ultimi modelli, è un po' vecchio, però non è proprio nuovo, mi dispiace perché non ho trovato qualcosa di... però devo dire che con... Okay. Il tocco in legno che gli dà un però vedrai che un giorno mi ringrazierai. Cazzo, sì. Ringrazierai. Sì, oddio, è un po' economico, devo dirti, cioè, sì, è leggero, è un po' vecchio, però. Perché già 5 anni e ci sono già degli altri computer molto più interessanti, però so che si possono fare tante belle cose, ci sono anche delle schede di espansione, poi va ancora, cioè, è ancora in... Insomma, anche se insomma non è proprio nuovo, va bene. Dai. Sì, però gli hai regalato il modello vecchio, non il 2, gli hai regalato l'Apple 1, no? Quello sì, prima. Esatto. Ma l'Apple 1 non vale più un cazzo, cioè che ormai te lo tirano dietro. Lo so, però non è stato facile trovare di meglio, perché adesso sotto Natale c'è stato un fumo, cioè gli hanno rubati tutti dai negozi. No, ma poi l'ha strappato direttamente da Todorovic, quindi insomma... e niente. Che non ce l'ha Todorovic. Però secondo me un po' più avanti potrebbe diventare una cosa interessante, poi vedremo. Sì, dice, parlando seriamente, credo che nel 1980 neanche se piangevi in giapponese avresti trovato un Apple 1 da prendere in Italia, quindi ma lui non l'ha preso in Italia, non infatti. Credo proprio. No, ma io so, mio padre lavora alla Apple, esatto. E non lo trovavi facilmente neanche. No, è un banchiere che lavora nella banca nazionale americana. Di fianco c'è un posto con delle mele. No, non ho capito già se prima, mele prima o cosa computer. Bisognava sapere che fosse esistito, perché già nell'80 credo nessuno. Vabbè, ma non te metti a fare il professore, è una festa, su. Non è archeologia informatica, no, però devo dire la verità, io questi aggeggi non li conosco tanto bene. Però insomma dicono che un giorno saranno importanti nelle nostre vite, boh, io non so bene, perché non è che me ne intendo ancora più di tanto, insomma. È vero, però so che lui è appassionato di queste cose, me l'ha fatto capire e io ho cercato di fare il possibile, anche se ho trovato della roba vecchia. Bravo, comunque... bravo. Beh, qui ti sei svenato, insomma. Io spero che il regalo per me sia all'altezza, insomma, di questa cosa. Non mi offendo, ve caccio a tutti, insomma. Quindi... Vediamo. Vai, Carlo. Tu, va bene, Roberto, va bene. Allora, è quello lì che sta sopra, il pacchettino piccolo. Tieni, va, prendilo. Eccolo qui. È quello più piccolo dei tre, quello per Roberto. Sta però scartando, sta già scartando. Pensata lui... E niente, secondo me questa cosa qua, almeno pensato a te, perché sei quello un po' più che ragiona, no? Che si diverte a fare ragionamenti, e allora questo qua è una novità. Fighissimo. Ma che è? Novità, mastermind. Mastermind. Fighissimo. Mastermind. Io ho provato a giocarci e l'ho trovato divertente. Appena uscito, guarda. Sì, sì. So, me l'ha regalato anche mia mamma a me, quindi mi sono divertito tantissimo. Vabbè, era figo Mastermind. Io l'ho ricevuto come regalo. Anch'io ne ho ricevuto uno. Sì, sì. Ma spieghiamolo, perché magari non tutti lo conoscono. Proprio questo. Adesso penso che sia da un bel po' di anni che è fuori moda, però nella nostra epoca, a partire dal 1980, è stato un gioco che aveva avuto un successo, credo, planetario. Ebbe un successo planetario. Io me lo ricordo proprio esattamente in questa confezione che ho appena regalato al buon Roberto. E mi ricordo anche la foto di copertina, che era, stavo a guardare questa cosa qui, di questo tizio seduto con di fianco la giapponese, non ho mai capito perché c'aveva di fianco questa giapponese che lo abbracciava. Perché i giapponesi sono intelligenti. C'era il tizio lì che faceva, sono intelligente, no? E di fianco c'aveva una giapponese, vabbè. E come funziona il Mastermind? Chi è che se lo ricorda come si giocava Mastermind? Vai, raccontalo. Vai. Si metteva, allora, erano due giocatori, uno creava una combinazione di quattro colori, esatto, prendendola da un set di otto colori, di pirulini di otto colori, e ne sceglieva quattro di questi otto e li metteva in fondo al Mastermind, una cosa che poi si nascondeva in una posizione che poi veniva nascosta, veniva coperta. L'altro giocatore doveva indovinare sia i colori che la posizione. Sia i colori che la posizione. E per farlo c'erano delle regole semplici. Praticamente si partiva dalla prima riga, si posizionavano quattro colori, ovviamente la prima riga a caso, e dopodiché c'erano il pirulino, non so come chiamarlo, il chiodino esatto, nero e il chiodino bianco, e il giocatore che conosceva la combinazione nascosta segnalava col chiodino nero, se non ricordo male era colore giusto, posizione giusta, col chiodino bianco colore giusto ma posizione sbagliata. E tu praticamente ragionando dovevi appunto capire, allora qua ne ho messi quattro, di questi quattro ce n'è uno col colore giusto e la posizione giusta, un altro col colore giusto e la posizione sbagliata, allora prendevi la seconda riga, ripetevi alcuni colori e a seconda poi dei chiodini che mettevi, bianco e nero, dovevi ragionare e cercare di arrivare a indovinare entro 10 mosse, se non mi ricordo 8, male 8 sì. Mosse erano 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, ok. E vabbè, allora. Ah, ok, perfetto. 10 sì, mosse dovevi arrivare. In 10 mosse dovevi arrivare a indovinare la combinazione esatta. Esatto. Era parecchio divertente. Io ci giocavo con mio fratello e ci siamo divertiti per un bel po' di anni. Insomma, con questo gioco. Il Mastermind era figo, dai. Cioè, veramente sì che. Comunque ti ingegnavi, cioè nel senso stai lì, noi comunque fa tutta una serie. C'è un minimo di strategia, anche perché comunque sì, il fatto di aver capito che il colore è giusto ma la posizione è sbagliata, lì dovevi poi cercare di fare il minimo numero di combinazioni per arrivare almeno alle posizioni. Esattamente, sì. E il bello è che non si scaricavano mai le batterie. No. Perché? Non c'era. Al massimo ti rompevi il cazzo, ecco, quello sì. Insomma, ti rompevi i coglioni e lì a un certo punto si è scaricato. Diciamo che poi il problema era giocare quando iniziavi a perdere i pirulini che ti mancavano, quindi non riuscivi a... Perché poi, come tutti i giochi, si perdevano i pezzi alla fine. Non so voi, ma sì, vabbè, però non era un gioco, capito, che era facile per... cioè non è che sai, dovevi fare tanti movimenti, tante cose, insomma, quindi era pure un gioco tra virgolette rilassante, no? Tutto sommato, quindi rilassato. Sì. Tu, sì. Roberto, tu, il tuo approccio col Muscle Minds? Me l'hanno appena regalato, quindi. Ah, dici, lo devi ancora conoscere, c'hai ragione. Devo ancora conoscerlo, comunque. Immagino che ci giocherò e che mi piace molto. Era molto bello. Ti piacerà molto. Ti piacerà molto. Vabbè, allora io faccio un breve sondaggio. L'abbiamo avuto tutti in passato? Tutti io sì, sì, sì. Io ho giocato pure tanto, certo. Ma anche in versione anche in versione digitale, cioè sul computer. Ah sì, ci sono stati anche sul computer, sì, è vero. Anzi, penso che è uno dei primi programmi basic di un certo livello che mi sono fatto anche da solo, quindi quando all'epoca, insomma, poi c'era qualcosa che non tornava e c'era un tizio che conoscevo io che conosceva il basic a memoria, che gli faceva: c'è questa cosa però non mi funziona. Lui guardava sto listato, risolveva tutto in due secondi. Vabbè, cioè, mostri incredibili. Ho avuto anch'io uno così, che è stato un mentore. Allora io faccio il mio regalo a Carlo, quindi tutti preparate i vostri regali per Carlo, perché Carlo è il nostro boss qua dentro, quindi insomma tutto sommato. E niente, praticamente io, guarda Carlo, c'è una dedica in questo. Io non conosco ancora bene questo mondo, non so come funziona, però so che a te ti interessa molto e spero, veramente spero vivamente, che possa essere il tuo lavoro in futuro. Quindi insomma vedi un po' quello che... Che se ti piace questo regalo, tanto c'è questo tizio che parla. Che bello! Magari potrebbe essere, che ne so, in futuro gli potrebbe servire per diventare una tua professione. Non conosco questo cos'è? Un manuale di programmazione di un microprocessore. Sì, sì. Diciamo che non lo so, io ho scelto un po' a caso perché non conosco, capito? Quindi sono andato dentro una libreria che pensavo specializzata, gli ho detto che mi dà, però è in inglese, quindi insomma, ma io penso che tu sì, me la cavo. Poi se non sbaglio, il regalo che ha appena fatto a Roberto, me lo presti perché mi sa che c'è dentro lo stesso processore. Esatto. Così lo ci inizia un po' a sperimentare, poi te lo ridò, non ti preoccupare che te lo ridò. Ma più avanti, sì, tranquillo, forse. Tanto non a che può servire. È vecchio poi. È vecchio. Allora, diciamo una cosa, che come abbiamo raccontato tante volte in archeologia informatica, poi adesso Carlo mi correggerà naturalmente. Negli anni 80 i computer si incominciavano ad affacciare lentamente anche nella vita delle persone, no? Quindi, sì, diciamo che il 1980 è proprio l'anno domini dei computer economici, perché esce nell'80 lo ZX80 della Sinclair. Infatti ti volevo regalare quello io in realtà. Esatto. Io e poi esce alla fine degli anni del 1980, come ha scoperto per bene il buon Roberto, viene presentato il VIC-20 in Giappone e poi arriverà nell'81 in Italia. Però nascono quindi i computer veramente economici, perché i personal erano già dal 77 che iniziavano a diffondersi, ma il costo comunque non era così basso. Era importante. Invece dall'80 inizia proprio a nascere quel segmento economicissimo che darà vita proprio all'acquisto dei computer anche per i ragazzi, per i bambini, per noi insomma, per quelli della nostra epoca. Quindi in quegli anni lì esplode questo mercato, assolutamente vero. Quindi c'è questo discorso di questi libri che cominciavano ad uscire, che approcciavano il discorso della programmazione, spiegando insomma, forse alcuni molto più tecnici e alcuni molto più basici. Poi ovviamente il discorso è che a un certo punto, quando sono usciti veramente gli home computer, quelli che noi chiamiamo gli home computer, era più facile magari trovare libri più specifici proprio al tipo di basic magari di quel tipo di computer, certo, piuttosto che l'altro. Però insomma all'inizio la programmazione era ancora vista come una cosa, i programmi computer, e quindi insomma magari ti servirà in un futuro, insomma. Lì a pochi anni sarebbe cambiato tutto. Beh, io ho imparato a programmare nell'82, quindi 2 anni dopo, in pratica. Durante i mondiali. Non mancava. Durante i mondiali, sì. Leggendo, senza avere ancora il computer, ma leggendo la rubrica di fronte al Fatto Computer, che era un appendice della rivista Videogiochi, e quindi imparando a programmare sulla carta praticamente. Io mi ricordo i fascicoli di Chip. Anche c'era il fascicoli, Chip, mio padre comprava questi fascicoli e li leggeva, io li leggevo a mia volta perché ero proprio affascinatissimo da sta roba, anche se non capivo quasi un cazzo, però mi piaceva vedere le foto degli schermi dei computer, il cursore, queste cose qua. E mio padre era appassionatissimo, anche se poi pure lui non ci capiva niente, non ce l'ha mai avuto di fatto un computer in quel periodo lì, no? Però poi dopo è arrivato il VIC-20, il 64 e via dicendo. Però c'avevamo la, io adesso ho l'Atari. No, uno poi aveva l'Atari ancora, scusa, sì, ce l'avevo come? Io qua. Sì, ce l'ho, sì, dai, nell'80 ce l'avevo già, pure da un bel pezzo, insomma. No, è un po' difficile, è arrivato nell'80 in Italia. Esatto. Vabbè, ce l'avevo, dai, l'Atari nell'80 ce l'avevo l'Atari, su, dai. Puoi averlo avuto solo a Natale dell'80, perché esatto, vabbè, era Natale dell'80. Quindi doveva regalartelo qualcuno adesso. Adesso okay, e difatti era il mio regalo. Allora c'avevo, il Pong. Il Pong ce l'avevo, dai. Sì, qualcosa sì, ce l'avevo, dai. C'avevo tutti il Pong. Ok, allora chi fa il regalo a Carlo? Il mio l'avete già svelato, perché io in realtà avevo proprio questo qua. Per me? Sì, perché, ma in realtà più che per te è perché piaceva a me. Io so che poi venivo da te a giocare. Ma pensa che ti hai azzeccato, perché il mio regalo di Natale, del Natale 1970, è stato proprio il VCS appena uscito, e me lo regalarono. Proprio il mio padre, che è tornato dall'America, mi ha detto: guarda, ho trovato questo. Sì, questa è la confezione tedesca, però fai Das Super Telespielfurfunzen. Sai perché? Mio padre ha preso un volo della Lufthansa dall'America, è andato a Monaco, da Monaco all'aeroporto di Monaco aveva trovato questa roba qua. Sì, perché poi non era così scontato che nell'80 c'erano voli diretti dall'America all'Italia, quindi insomma. No, decisamente. E quindi te lo becchi in tedesco, comunque sappi che ma tanto non ci sta roba da leggere. Comunque grazie, perché è bellissimo. Lo so già che ci giocherò fino alla morte e non vedo l'ora di venire anche io da te a giocarci, perché mio padre l'ha portato solo per te e non per me. Vabbè, ma che cazzo, scusa. No, a me ha portato un'altra cosa, a me ha portato un computer molto più grande, ma dopo lo vediamo. Mitico, ecco. Comunque sì, pensa che era anche uno dei miei regali, però andrò in riserva a questo punto, okay. Ah, ok, vabbè, era normale, l'avevo preparato anch'io, era normale che sarebbe successo. E il tuo era la confezione più bella, però è quello con solo due switch. Il mio ne ha tre, è quello più vecchio, è quello degli anni 80. È proprio quello dell'80. Sì. Oh, ma Roberto, mi hai già dato il regalo, bellissimo! Ah, che bello, fantastico. Ma perché gode questo? Lo desideravo, sì. Però Roberto, non devi essere anarchico, devi aspettare. Questo qui, ragazzi, è in questo momento qui è il mio cartone animato preferito in assoluto. Scusa Carlo, ma in una lingua straniera che non si capisce, che cos'è questo? Gundam, c'è scritto sotto, leggi che c'è scritto. Ok. Vedi? No, ma poi mi dicono che questo pupazzetto poi diventerà uno dei più collezionati, più rari, non mi chiedere il perché non me ne intendo. Ma io sono cose che dicono tutti i giapponesi, che come facciamo a saperlo? Stava sulle versione, però no, sì. questa ce l'ho, questa versione qui della Ceppiratti ce l'ho. Che Ceppiratti? Sì, distribuito dalla Ceppiratti in Italia. È stata questa versione in Italia, qui, ma non so, questa qui in particolare pare, leggendo la sfera di cristallo, che vale 2000 euro adesso. Ah, però no, è sbagliato quello che pare, guardando la sfera di cristallo, che un giorno varrà 2000 euro. Un giorno varrà. Cosa sono gli euro? Poi lo sai solo tu, però vabbè. Cioè. Esatto. È un modo di dire, Ah, gli euro è un modo di dire, vabbè, ok. Gli euro è un modo di dire. Comunque era della Clover ed era distribuito in Italia dalla Ceppiratti, e questo particolare modello ce l'ho, quindi adesso che mi hai detto quanto vale, meglio che non lo dico a mia moglie, perché se no te lo fa rivendere. Se lo vende da qualche parte su eBay, se lo vende a basso costo, si ingegna e lo vende a 1500, dai. Vabbè, il modello che invece valeva di più in assoluto era quello Jumbo da 60 cm, che nella sfera di cristallo vedo che vale 7.000-7.500 euro circa adesso, sempre di conto. Che non hai. No, no, quello no, non ce l'ho. Beh ragazzi, comunque io a questo punto, se, dato che si è freddato, perché questo è un piatto che non va mangiato caldo caldo, insomma, una cosa che mi piace, un secondo grazie a tutti per i regali. Beh, belli belli, posso, infatti, sì. Adesso io ci avrei anche un po' di fame in effetti, no, sì, questo è qualcosa. No, aspettate che stavo sbagliando, aspettate. E niente, praticamente questo è un anche questo l'ho visto, l'ho mangiato diverse volte in dei ristoranti, mi è piaciuto perché c'è questa cosa un po' contrasto carne pesce, ma in realtà è carne, insomma, e un bel vitello tonnato. C'è solo questo come secondo, quindi non ho fatto tanti secondi, però ecco, questo è buono, buono questo vitello con la salsa tonnata, che poi dopo successivamente so che nel dopo fra 30-40 anni faranno invece il tonno in salsa tonnata, in salsa vitellata, quindi cioè nel senso il succederà dopo. Però il contrario, c'è uno chef che fa la versione opposta praticamente. No, questo mia suocera lo fa spesso, il vitel tonnato. Sì, ancora si trova, è vero. E lo fa molto buono, e io l'ho mangiato per anni a casa di mia suocera. Un giorno mia suocera ha detto: ma sapete perché il mio vitello tonnato vi piace così tanto, così buono? E noi: perché è fatto bene. No, fa, perché non è vitello, usa le fettine di maiale praticamente. Ah vabbè, sì, no, comunque è buono, no, comunque è buono uguale, perché poi è vero, per questo che era più buono. Era maiale tornato. Il maiale vitellato. La lonza di maiale al posto del vitello, praticamente. Allora. Il vitello tornato da me era quasi ancora un antipasto. No, ma infatti, ecco, volevo dire questo, perché in realtà recentemente, tipo 2 anni fa, siamo stati a Torino, ci siamo visti con Alex. 3 Natali fa, adesso non ricordo bene. Ci siamo poi visti con Alex e siamo andati a mangiare in un posto dove fanno patate ripiene, insomma, sì, con vari patate, esatto, e loro, perché poi il vitello tonnato è una cosa poi molto molto nordica, cioè nel senso da noi a Roma è praticamente impossibile trovare un ristorante che fa il vitello tonnato, però in questo locale dove facevano queste patate ripiene buonissime, il vitello tonnato viene dato come antipasto, in effetti, cioè nel senso viene considerato è tra gli antipasti ed è buonissimo, cioè buonissimo, perché comunque devo dire, in realtà la salsa tonnata è proprio buona, cioè se è fatta bene. Quindi sì, te la spalmi sul pane o te la metti sul vitello, è la stessa cosa, cioè è buona proprio. Quindi. È buona, buona. E questo è un classicone, sì, dai, degli anni 80. Grande classico, sì, buonissimo, buonissimo. Grande, sì. Ancora buono anche oggi questo. Assolutamente, assolutamente. Vabbè, tutti i piatti rimangono ancora buoni. È chiaro che oggi non sei proprio più abituato a vedere, cioè vedi le pennette alla vodka e ti fa un po' strano, no? Dice, nel senso, ma che, dentro un ristorante, poi te le fai a casa è un altro discorso, cioè ci può stare, insomma. Poi è veramente difficile oggi trovare, cucinare con la panna, perché anche la boscaiola che oggi ancora si fa nel centro Italia, per esempio da noi in Umbria, però è difficile che te lo fanno con la panna, cioè lo fanno magari con sì, la panna oggi come oggi la mettono solo nella carbonara. È che ma non era mica nella matriciana? Mamma mia, che botte mi ha detto. Scusa, la matriciana si fa con lo speck. C'era parte, anche no? Il tacchino tonnato, ci dice Claudio. Sì, c'è il tacchino tonnato. Sì. Va diciamo bene, tutta la carne, tutto quello che è carne si tonna poi. Tonna. Vabbè, dopo c'è il dolce che ovviamente vi immaginate, no? Ovviamente c'è un torrone, un pandoro e un panettone, decidete voi dopo. Però insomma, continuiamo. Ma non c'è la Macedonia? No, la Macedonia no, non c'è la frutta di stagione. Negli anni 80 non è che cioè, nel senso. Ma la Macedonia c'era, dai. Vabbè, io non l'ho fatta la Macedonia, la potevi portare a te, dato che sei venuto. Vabbè, hai ragione, però c'erano degli scatoloni così grossi che è un casino. Dai, Davide, a chi lo fai il regalo? Forza, facci vedere. Io lo faccio a te, guarda. Dai, grazie. Adesso grazie. Ti tocca, dobbiamo darle a te. I regali, sì. No, ma anche tu, Davide, a ricevere, sì, regali. Sì, sì. Sono indeciso, devo fare lo sborone o no? Facciamo vai con Simone. Faccio lo sborone con salmone. Con salmone alla panna, poi. Dai, inizio a scartare. Aiuto. Dai, scarto, ecco, sto scartando. Vai. se sì. Io so che tu sei molto appassionato. Oh Madonna, sì. E mio padre dall'America, guarda un po'. Cazzo. Cioè tuo padre è andato in America a rubare fondamentalmente. Ah, vai, gliele regalavano perché a Natale in banca, lì dove lavorava nella Super Mega Spence House Alford Honored Bank di Oklahoma, New York. Gli hanno regalato un sacco di roba, non sapeva che cazzo farsi, lui non gliene frega niente, gli ha detto guarda c'ho un amico che so che è appassionato e fa video a destra e a manca. Negli anni 80 c'era questa bella, negli anni 80, nei nostri anni. Allora io vi racconto una storia, dato che insomma alla fine quando era un futuro serve anche a questo, soprattutto perché ho esagerato, scusa. Hai esagerato però involontariamente. No, perché è questa, scusate, doveva essere questa. Ah, ok, la Beta Movie, Betamax. No, quell'altra era tipo da qualche di 20 milioni, 50 milioni, forse un po' esagerata. No, era questa, scusami, è questa, va bene lo stesso, no? Va benissimo, assolutamente, anche se, devo dire la verità, che negli anni 80, quindi anche un po' prima, e mi ricordo che noi ci andavamo a fare le settimane bianche, praticamente mio padre aveva questa telecamera Betamax enorme, cioè non lo so perché, vedi, il problema della gente come mio padre, che a un certo punto negli anni 80 ha fatto i soldi e che ha cominciato a spenderli a casaccio, cioè, ma spendere a casaccio sarà stata veramente, penso sarà costata veramente 10 milioni quella telecamera, ed era grossa, cioè ovviamente era spallare, la potevi usare solo spallare, e tra l'altro era molto simile a quella che si vedeva nelle televisioni, insomma, no? In più, quelli che ho messo lì nella foto, no? In più, ovviamente, per essere alimentata c'era bisogno di una batteria che tu portavi a tracolla, e quindi la telecamera era collegata a questa batteria a tracolla, e all'interno c'era anche il sistema di registrazione, perché la telecamera di per sé non aveva il sistema di registrazione interno, ok? Non c'era la cassetta dentro, la cassetta stava dentro il fregno che ti portavi a tracolla, ed era un peso enorme. La cosa meravigliosa di essere stato il figlio di mio padre in quel periodo lì è che queste cose poi alla fine le usavo io, ci giocavo io, nel senso, da ragazzino, fino a che crescendo ovviamente anche un po' più grande ci andavo in giro a fare interviste per Roma, e ovviamente la gente si stonava sta cosa perché vedeva un ragazzetto dei 15 anni, 14 anni, però con la telecamera che era quella della televisione, cioè, non capivano, no? Cioè, non capivano, cioè. Fino a che una volta, anche se oramai era una cosa vecchia, cioè nel senso, perché comunque ci è durata veramente tantissimi anni, e me la rubarono dentro l'ascensore perché arrivò sto tizio col coltello, praticamente io ormai ero dentro, ero... Ah, è la Madonna, proprio sì. Col coltello, sì, col coltello, la piena mano armata. Sì, sì, esatto. E cioè, vabbè, lui mi disse posa tutto, io ovviamente non gli ho detto no, non posa tutto, tieni, tranquillo. E la cosa bella che mi ricordo di questa telecamera Betamax era che aveva la persistenza del sensore, cioè nel senso, quando tu passavi, per esempio c'era una luce che passava nella insomma nell'inquadratura, rimaneva la scia di persistenza di questa cosa, che era una cosa tipica, no, dei sensori, insomma, sì, sì, video delle erano, insomma. I CCD erano comunque, no. CCD, ma sì, sì, sì, esatto, che ecco, perdevano più lentamente la luce, diciamo. Però, erano lì. Però anche questa più piccola era bellissima, cioè, quindi grazie, questo è un regalo che ovviamente sapete che avrei apprezzato, insomma, quindi, che utilizzerai, che utilizzerò da morire per tanti anni a venire, insomma, fino ancora oggi, poi tutto sommato, in un modo o nell'altro. Bene, bene, Roberto, dai, vai te con Simone, o vado io? Vado io. Vai, scatto, allora, io ne ho due. Due addirittura. Io ne ho addirittura due. Uno grande e uno piccolo. Da quale vuoi partire? Dai, quello piccolo, dai. Allora, partiamo da quello piccolo. Stai scartando? Scartato, ho già finito di scartare. Però però non so cosa ho scartato. Oh, esatto. Questa ci sta, vai, ci sta. questa c'è stata, l'ho apprezzo già adesso. Io ne cercavo una dimensione reale, le troverete però, tutte mozzicate naturalmente, no, ma questa è particolare, praticamente a questa crescono le tette, ah. Vedi, c'è anche la foto, se tu schiacci, questa è una Barbie, è vero, non ci sta seguendo, è una Barbie che cresce, growing up, andiamo, vedete? Bene, cioè, comunque se ne inventavano di tutti i tipi, eh. C'è una Barbie che tu praticamente clicchi e gli escono le tette fotoniche, cresce, non mi chiederemo più avanti, eh. Dopo dopo vi dirò, farò la recensione. Okay. Non ci posso credere, non l'avevo mai vista io questa, giuro. Manco io, la Barbie che cresce, gli crescono le tette, naturalmente, insomma. E invece quest'altro cosa più grande, questo è il secondo, che scarti anche questo, bello. Questo è un trasmettitore e lineare Marvel, perché sai che in questi anni cominciano ad esserci delle radio pirata, delle radio di quartiere. Madonna, figo questo, avercela avuto per davvero, sarebbe stato figo. Questo trasmettitore e puoi fare la tua bella radiolina privata che con questi all'epoca vedo, non era regolamentato. Lo so, però era difficile che ti beccassero, insomma, non era così facile. No, non era regolamentato, giusto? C'era le radio pirata o nell'80 era già regolamentato? Furono chiusi. Ma in realtà non era regolamentato, però erano comunque pirate, e quindi quando li beccavano li segavano, giustamente. Esatto. Perché era più difficile segarli perché non c'era poi tutta sta tecnologia. Comunque tarato a 88 out max 150 watt. Interessante. Non mi devi spiegare come funziona, non lo saprò mai usare una cosa del genere, però grazie, tutti i regali graditi, compresa la Barbie naturalmente, anzi forse in particolare la Barbie. Grazie Roberto. Guarda, invece vai. Il mio è quello scatolone lì grosso, prendi okay, quello scatolone, vai, lo vai. Vedi? Scarto, scartalo. Vado, sto scartando. Vai. Questo, ogni volta che scartiamo facciamo... Allora, grande! Io so che tu sei appassionato di Subbuteo, ma questo è l'evoluzione, adesso Subbuteo diventa vecchio, questo è il Dribbling Tronic. Io ce l'ho questo, Il Dribbling Tronic è il nuovo, è guarda qua, è solo il meglio che ci sia, Dribbling Tronic, il calcio elettronico con 12 possibilità di gioco della Arco Falk. Bellissimo, anche se non sono amante del calcio l'avrei comunque voluto, basta che c'era la parola Tronic. Allora vi spiego come funziona, era una roba funziona. Che a te piace, perché io ce l'avevo, ci ho giocato, e vi spiego anche come funziona il gioco. Praticamente tu sia da una parte che dall'altra ci sono tipo tre pulsanti, no? E quando tu hai la palla, per andare avanti devi decidere se andare avanti centrale, a destra o a sinistra. Il tuo avversario che sta dall'altra parte deve capire da che parte stai andando, capire, deve andare a culo fondamentalmente, perché non c'è, insomma, se lui spinge la stessa direzione che hai spinto tu nella direzione in cui vuoi andare, lui ti ha rubato la palla, altrimenti tu l'hai dribblato e sei andato avanti fino ad arrivare ovviamente al tiro in porta, che lì penso che l'ultimo tiro era inevitabile, insomma, non lo potevi parare, cioè, oppure anche lì potevi decidere se tirare a destra, centrale o a sinistra, e il portiere ti parava, e questo ore e ore di gioco su sto coso qui, quindi, sì. Quindi vedi che, cosa che sicuramente vai, scusa, mi senti? Sì pronto? Sì pronto? Sì, ti sento, ti sento. Stavo dicendo che a Davide Gatti sarebbe piaciuto tantissimo, perché c'ha dei LED rossi, è tutto coi LED. Esatto, sì, no, poi Tronic LED, io l'avrei preso, poi l'avrei LED, aperto, l'avrei smontato, sicuro. Poi il bello è che su questa seconda copertina che avete messo c'è uno con la maglietta dell'Inter, uno con la maglietta del... Sì. Non so, della Juve. Uno della Juve, va bene, quindi Inter, Juve, poi una bianca e rossa che non Milan. So. Il Milan va bene, e poi il bambino del Milan. bambino del Milan. La Lazio non c'è. Non c'è manco la Roma, è tutta roba del nord. La Lazio non c'è. No, la Lazio non c'è. Ma allora negli anni 80... No, la Roma c'è, quella rossa, no? La bambina rossa, non è la Roma. Non ne sono sicuro, sai? Non ne sono sicuro. No, sembra il Monaco quasi. Sì, non so che squadra possa essere, detto il vero. Comunque non è, perché c'ha il colletto bianco, quindi non è a Roma. E no, poi la Lazio negli anni 80 praticamente galleggiava tra la Serie B e la Serie B, quindi insomma, ma la pena esisteva, insomma. Bello, sono tutti i regali che... E quindi ce l'avevi già, peccato. Ce l'avevo, già, no, in realtà non è che ce l'avevo, in un'altra... Ce l'hai avuto adesso. Esatto, è questo che tu mi hai dato, che ho già capito come funziona e quindi ti ho spiegato come funziona, quindi vedi. Che poi è bello in realtà il fatto che ti si fanno regali. L'hai visto da un tuo amico e avresti voluto tanto averlo. Vabbè, comunque è bello fare dei regali, che poi in realtà il fatto che uno ce l'ha avuti è comunque indice anche del fatto che uno ci si conosce, insomma, in qualche maniera. Quindi è carina come sì. Cosa, dai. Belli, grazie veramente. E a questo punto adesso facciamo i regali a Davidone. Adesso tocca i regali a Davidone. Sì, esatto. Pensavo avessimo finito, a dire la verità. Mi ho dimenticato che io sto uscendo a bocca asciutta. Io mi sarei fatto i regali che non ho fatto a voi alternativi. quali sono i regali che ti sono rimasti fuori? Diccelo, così almeno. Io ti avrei regalato anche questo. Se per caso saltava, ti avrei regalato questo. Casio TV, Seiko TV, orologio, bellissimo. Sì. No, che cos'è, scusa? Quante volte? È un TV orologio. È un TV orologio. Cioè la TV tramite il quarzo dell'orologio? Sì, quello. Esatto. Sì. Sai quando negli anni 80 vista sta cosa? Un giorno noi guarderemo la TV sull'orologio, sembrava fantascienza. E l'hanno fatto. Chiaro che poi questo, rispetto a quello che immagini, non è quello che vedi che c'è un filo che entra nella manica, poi quel filo va a finire in una centralina che ti sta in tasca, grossa come un pacchetto, certo, di sigarette, certo. Che è il vero televisore. Però avere al polso l'orologio di James Bond che ti fa vedere il video, ovviamente questo è andato a finire in qualche questa spaccava, no? E niente, questo era un altro ragazzi, faceva sta roba che comunque ha molto avveniristica da certi punti di vista, insomma. C'era la richiesta, la gente diceva sarebbe bello averlo, e c'è poi chi l'ha fatto, insomma, arrivato, certo. Vabbè, e poi poi ti avrei regalato una, vabbè, ma troppo grande, troppo importante, ti avrei regalato questo qua appena lo trovo. Però questo effettivamente è un pochino eccessivo. Anche perché portarlo dall'aeroporto faceva un po' di problemi a portarlo. Questo. Ma che cos'è? No, perché questo serve per fare il montaggio dei video, perché dopo averli girati, la tua seconda passione era fare il montaggio. Sì. So che all'epoca non so cosa succedeva. Ne servivano due di quelli per fare montaggio. Esatto. Però io lo facevo con i Betamax in parallelo, cioè avevo due Betamax, sì. con la rotellina e facevo i montaggi in analogico, vabbè, come se faceva... Uno te lo regalavo io, l'altro te lo regalava Roberto, così almeno ne avevi due. Esatto. Vabbè, adesso lo faccio io. Facciamo i regali. Te lo faccio io il regalo. Andiamo con Davide, vai. Vai Davide, ti do il mio primo regalo, anzi non il mio primo regalo, il mio unico regalo che ti faccio. Sì. Stai scartando. Aspetta, se sta, eccolo, ok. Oh, che libidine! che bello. Questo qua è Amtron, occhiurio scritto Amtron. Sì. Li vedevo sempre lì appesi in GBC dove andavo, e mi ricordo che mio padre me ne aveva preso uno, ma io ne volevo degli altri, ma grazie, proprio per te. Sì, ma spiega, racconta. Sì, scusate. Dai per scontato che gli altri... Non ho capito cos'è. È un kit, è una scatola di montaggio di una... Questo qua sembra un affare con dei display... È una tombola. Questa è una tombola. È una tombola, perfetto. È giusto per Natale, ovviamente. Esatto. È ottimo. Bello. Sono ingrifatissimo. È un kit di montaggio elettronico che fa la tombola, fondamentalmente. Se fossi a casa di qualcuno e mi avessero regalato questo, avrei detto: vabbè, ragazzi, è stato bello. Ciao, io vado. Era finita la serata, dici? Sì, era finita, me ne andavo già. Vedi, c'è scritto novità. Questo è proprio nuovo, Davide. Sì, bello. Poi con dei display, è roba digitale. elettronica. Bello, bello. Mi piace. Ok, sono contento. Sono gasato. Vediamo il regalo di Carlo a questo punto per Davide. Allora, per Davide è quell'altro scatolone grosso lì che vedi, no? Quello lì bello, grosso. Inizia a scartarlo, guarda, eccolo qua. Io non lo vedo. Fatica a aprirlo, eh. Ah, scusate, l'ho messo sull'altro gruppo. Vabbè, l'hanno visto prima gli altri, che devo dire. No, ho sbagliato gruppo. Oh, ah, orca. Bene, bene. Questo qua è il modello che c'ha dentro anche il motore, quello da 4,5 volt. Il motore Lego, quello giallo. Da 4,5. Io ho quello, esatto, nero e quello c'era blu anche. Che questo è il modello nero, guarda quello che è. Però scusa Davide, no, ci devi avere almeno 7 anni. Guardando adesso che non arriva più, perché ce l'hai 7 sì. anni almeno. No, sì, sì, io ce li ho 7 anni e ne ho anche tanti di questi. Ma che bello, anche il motore Lego nero. Anzi no, scusa, mi correggo, dice a partire da 7 ans, quindi ci devi avere 7 anni per giocarci, capito? Quindi una cosa. Ciccio Bombo cannoniere con 7 buchi nel sedere. Desde 7 anos, vedi, lo dice proprio. Niente, Ciccio Bombo. Questo qui era il famoso motorino che io quando lo ricevetti io per Natale l'avevo usato per fare l'apri chiudi della porta della cameretta, perché aveva una trazione incredibile questo, con il cingolo. Sì, sì. Io ci avevo fatto la gru invece. Sì, mi sa che l'avevi raccontata, sai, sta cosa, non me la ricordo. Esatto, sì. Me la ricordo, che io mi ricordo in quale dei giocattoli, quando parlavamo dei giocattoli. Sì, penso dei giocattoli comunque. Ne avevo tanti, ne ho tanti, e lo metterò assieme, cercherò di fare una bella composizione con tutti questi bei pezzi, perché la scatola lì 744 ha dentro un sacco di pezzi. Bello, bello, molto bello. Ottimo, sono gasatissimo anche con questi e direi che sto quasi per andare a casa. No, aspetta, perché c'è quello di Roberto, scusa. Sì, sì, appena arriva lui poi vi saluto. Vediamo se lo riconosci. Porca. In quel periodo penso che questo ce l'avevano solo. Questo è un kit di montaggio. Sì, penso di sì, però ce l'avevano solo, se costava miliardi. Questo era un kit di montaggio che è uscito su Elector. Sì, questo è il Formant. È un, sì, sì, esatto, è il sintetizzatore, è uscito in 2 anni di Elector. Questo qua è stato, questo veramente sarebbe, anche farlo sarebbe costato talmente tanto che non l'ho mai fatto, però ce l'avevo, le riviste le avevo, le accumulavo, le mettevo lì una in fila all'altra, con scritto qua c'è la puntata numero 1, la 2, la 3, la 4, la 5, però non l'ho mai iniziato perché quello dovevi per forza finirlo per usarlo. Io però farei notare una cosa, quanto è bella nel pieno di spirito natalizio il fatto che quando i regali sono virtuali siamo tutti generosi. spendiamo i milioni. Vogliamo ricordare che io all'inizio, quando avevi detto a noi qual era l'argomento della serata, no? E io avevo detto, ma io a quegli anni lì avevo 15 anni, voi ne avevate 10, al massimo mia mamma mi portava a casa tua e ti diceva, vi mollo qua mio figlio, ecco qua la bottiglia o un pacchetto di pasticcini e buona serata, quello era il regalo. Ciao. un panettone portava, e il massimo dei regali era quello, forse si faceva un unico regalo, ma tipo al massimo costava 10.000 lire, 20.000 lire, e dicevo, cosa cacchio vengo, cosa porto voi tre allora, poi dopo tu hai detto che c'era budget illimitato e allora non lo so, io purtroppo in un periodo come questo, diviso tra scienza e fantasia, in un periodo come questo che è il Natale, che in qualche maniera accende un po' un aspetto magico che è dentro di noi, mi viene da pensare che probabilmente fra 3 anni ci sarà un bambino che riceverà un computer, scartandolo si metterà a piangere, strillerà e scapperà dalla gioia, e chissà quanti altri bambini faranno la stessa fine, dovendo poi ripetere la stessa scena perché il padre si era dimenticato di riprenderla, e lui la rifarà esattamente nello stesso modo, perché nello stesso modo, nello stesso momento si è riemozionato alla stessa maniera, e quindi ha ricominciato a piangere, strillando e scappando dalla gioia, insomma. E poi so che l'ha fatto anche altri 20 anni o 30 anni dopo pure. Sì, diciamo, più o meno, sì, più o meno, insomma, è sempre qui con me, è un pezzo di storia che è sempre qui con me. Bene ragazzi, dai, è stata carina questa rimpatriata. Ah, scusate, il pandoro o il pandone? Ma scusa, ma non si mangiano delle noci alla fine ancora, dopo così per tirare se un po' di acqua? Se vuoi, pandoro e il panetto. La bottiglia di Coca-Cola sul tavolo con dolci, nocciole, pistacchi e roba del genere, e quei datteri e i fichi, no? Quanti cazzi, Davide, io ho cucinato, vi siete mangiati quello che ho messo lì, dai, poi dopo fate come... Però, Maro... Curiosità, no? A Milano nell'80 c'era il panettone e questo era standard, il pandoro è arrivato anni dopo, ma a Roma nell'80 cosa c'era? No, c'era il panettone, penso anche il pandoro, io il pandoro me lo ricordo anche da bambino, ho detto il vero. E io preferivo il pandoro perché non c'erano i canditi, a me facevano schifo i canditi, però diciamo che negli anni 80 poi è cominciato a uscire fuori quelli, le varianti, un po' al cioccolato, il tartufons, bon, ti ricordate insomma quelle cose lì, no? Però tanto Roberto sta mettendo i regali alternativi avanzati dentro nel gruppo. Anch'io a questo punto. Vabbè. Ecco. Ah, il giradischi per chi era il giradischi, scusa? Per Davide, è il... mitico Torrance con un braccio della SME. Adesso di giradischi non sono mai stato un super esperto appassionato, però il giradischi in sé come articolo ha sempre il suo fascino in qualsiasi forma e faccia abbia. Io ho un dual. Vabbè, io invece avevo anche questo regalo che era una novità assoluta e che volevo regalare a Simone. Eccolo qua, è appena uscito. Ah. Il cubo magico si chiamava. Il cubo magico. Noi oggi lo chiamiamo esatto, però allora noi per anni è stato il cubo magico questo, Poi vabbè, c'era, andava di moda un film che era uscito da pochi anni e stava spopolando e quindi tutti volevano queste figurine qua. Ah, okay. E anche questo coso qua. Guerre stellari, in quegli anni stava spopolando, era uscito da poco il primo e stava per uscire il secondo episodio in Italia di Guerre stellari, e chi non voleva avere a casa la figurina di Guerre stellari? Ce l'avete avuto tutti voi quelle figurine della Herbert? Le figurine magari no, però modellini sì. Modellini avevi già? Sì, qualche modellino l'ho avuto, sì. Ma io ci ho avuto un Millennium Falcon de ferro, penso era, insomma, però non ricordo il periodo, onestamente. A me è arrivato come regalo proprio poi l'oscilloscopio. Lo scopio è un regalo multiplo, qua tutti potrebbero essere coinvolti, ma tu in particolare. Sì, io che poi non c'entro niente, continuo a ribadirla questa cosa. Oramai però, è così, è giusto che sia così. È giusto che sia così. Vabbè. E poi vabbè, questo io ce l'avevo, è proprio dell'80, il Cinevisor, ve lo ricordate? Anch'io l'avevo. Il Mupi, no, cos'era? Sì, Mupi. Il Mupi a casa per vederti i cartoni animati. Con la bobina dietro infinita gialla. Allora, io ci avevo sia questo che quello invece a forma di cinepresa, dove tu dentro comunque mettevi la pellicola del cartone animato e tu giravi e quella andava avanti e te la vedevi, però dovevi puntare verso una fonte di luce, altrimenti... non vedevi, e se puntavi contro il sole diventavi cieco, insomma, quindi però okay, queste cose ce le abbiamo avute un po' tutte, sono carine queste, perché poi sei diventato cieco anche a forza di ciucciare le tette della Barbie, esatto, anche, eh? No, ma quella era molto più in là negli anni, cioè ero già diventato grandicello, cioè, avevo avuto 13 anni, c'era sta amica mia che c'aveva le Barbie e io. E poi comunque anche questo, insomma, sai, l'ho un po' marcata la cosa, non è che mi sono messo... comunque, la Barbie l'hai marcata. L'ha marcata, esatto. Comunque la cosa bella è che in una puntata come questa poi alla fine escono oggetti degli anni 70 e 80 che sono completamente spariti, ovviamente, anche per ragioni tecniche, pratiche, il fatto che comunque sono stati sostituiti da ben altre cose che magari da sole fanno tutte queste cose insieme. Però insomma è carino rivedere, ecco, questa cosa del televisorino dove tu mettevi la pellicola dentro retroilluminato e ci guardavi i cartoni animati, insomma, Ma Buffy ha avuto un successo della Madonna, ce l'avevano tutti quasi tutti. Io mica gira dischi, altro che gira dischi, io ho il mangia dischi, non il gira dischi. È vero, anch'io c'avevo il mangia dischi. Arrivato anni dopo, a 10 anni avevo il mangia dischi arancione. Mangia dischi no, io ce l'avevo rosso, e però andavano solo i 45 giri, chiaramente. Perché... Esatto. Sì, certo, c'entravano solo i 40, che li mangiava proprio, li mettevi dentro, la cosa divertente era proprio quella. Si ciucciava, esatto. Che un po' ricorda il e sentivi dalla monocassa sopra. Sì, sì, sì, era bello che tu le infilavi, si sentiva e sembrava una cosa magica, perché non vedevi la testina del disco, non vedevi niente, si sentiva, era quasi un oggetto magico. Sì, sì. E andava molto di moda anche negli anni 60, direi. Sì, sì, sì, però io me lo ricordo, avevo 10 anni e avevo questo, quindi era... Ce l'avevamo tutti, questo. Penso. Direi proprio di sì. Sì. Vabbè ragazzi, dai, è stata carina come cosa. Comunque, Pandoro o panettone, che preferite? Panettone, io. Panettone con uvette e canditi, ovviamente. Ah, vedi, io se c'è il panettone anche con la glassa sopra e le mandorle, sono il nuovo più contento. Allora, il panettone, il panettone alternativo, che a posto dei canditi, cioè qualsiasi altra cosa, tipo la granella di pistacchi o il cioccolato, quello che vi pare, la pasta del panettone è sicuramente più ricca, più buona. Se no, il Pandoro buono tutta la vita, perché io prendo una tazza grossa di latte, ci infilo una... praticamente ci intingo la fetta di Pandoro e il Pandoro si porta via completamente tutto il latte, fa proprio sì, certo. Una spugna, esatto, completamente assorbe tutto, incredibile. Quindi ci vuole tanto latte per mangiare il Pandoro con latte. Bene ragazzi, dai, questa è stata una puntata così, anche per stare in compagnia, farci comunque gli auguri di Natale, fare gli auguri di Natale a voi che ci ascoltate. A proposito di Natale, ragazzi, andate su www.nantimeradio.it se volete fare un regalo in più, una cosa che vi sono rialzati dei soldi, andate su Runtime Anch'io e insomma fate una donazione, una tantum su PayPal oppure una ricorrente su Patreon. Perché? Perché comunque aiutate la struttura. Tra l'altro ci saranno degli aumenti di alcuni costi che dobbiamo affrontare, perché la promozione Spreaker prima sta per scadere, quindi passeremo insomma a pagare quasi 100 euro al mese per l'abbonamento Spreaker, e dobbiamo vedere se questa cosa ci conviene farla o no. Ma detto questo, comunque è una cosa sicuramente facoltativa, chi se ne frega se non lo volete fare. Ma ringrazio invece tutti coloro che in queste 2 settimane hanno fatto diverse donazioni insomma su PayPal. Non vi saluto tutti perché sennò poi mancherei rispetto a tutte le altre persone che magari l'hanno già fatto e che non l'ho mai salutate. Però vi ringrazio perché comunque insomma, si vede che ci tenete. Alcuni mi hanno scritto anche dei messaggi dicendo: io preferisco darti questi soldi ogni tanto, è come se io pagassi il biglietto di un teatro, per tutta la compagnia che fate e tutto il tempo che ci dedicate, ci fate compagnia magari durante i lunghi spostamenti. Ed è questo, poi è sempre stata un po' la nostra missione. No, da Carlo, da tantissimi anni noi facciamo questa cosa e tanti ci scrivono che i lunghi spostamenti in particolare sono i momenti in cui veniamo ascoltati e facciamo compagnia, perché spezziamo magari quella monotonia, oltre a dare poi comunque magari contenuti e informazioni, diciamo. Questo è lunghi spostamenti per forza, perché i nostri podcast di media durano 2 ore, esatto. Anche se poi perché se sei a Milano fai solo 30-40 km con 2 ore. Io devo dire che mi sto guardando, insomma stiamo mandando come sempre succede durante l'arco della giornata, alcuni podcast storici. Noi oggi ci siamo ridimensionati, comunque 1 ora e mezza, 2 ore facciamo una puntata, ma una volta c'erano puntate di 3 ore, 3 ore e mezza, cioè delle cose veramente fuori scala completamente, insomma. Quindi non fuori standard, sì, non c'avevamo proprio la misura della cosa, insomma. Però poi alla fine comunque la gente ti ringraziava perché diceva: vabbè, l'ho ascoltato in più puntate comunque tutte le volte che prendo il treno. Comunque, detto questo, io intanto saluto e ringrazio Carlo. Grazie e auguri ancora a tutti, a tutti gli ascoltatori. Esatto. Un buon Natale, un buon anno, non lo so, perché magari ci sentono, sì, prima, ci sentiamo prima, quindi intanto sentiamo. Buon Natale. Ci sentiamo prima sicuramente, quindi buone feste a te e a tutti a casa, mi raccomando. E fai tanti bei regali anche fino a che sono giovani i figli, insomma. Natale è per loro, no? Poi alla fine noi già, esatto, Guarda che da noi è già passato, perché qua si usa la Santa Lucia, quindi ah sì, l'ho sentita questa cosa, mi è stata spiegata, quindi vabbè, che cosa curiosa, magari una volta ne parliamo. Ringrazio e saluto, e ovviamente faccio gli auguri a lui e a tutti a casa, anche a Davide Gatti. Grazie a tutti, anche a voi, e faccio anch'io auguri di Buon Natale, buone feste. C'è Roberto che ci fa gli auguri a modo suo, da quello che vedo, non so se lo vedono anche gli ascoltatori, sono è un gran begli auguri, insomma. No, non sono privati. Sono privati, ok, allora ci rivediamo noi. Voi niente, ecco. Voi solo parole. Roberto, niente, Roberto, grazie. Non si fanno queste cose, Roberto. Grazie a voi, grazie Simone dell'ottima cena e della compagnia, e ci rivediamo magari per fare qualche botto a fine anno. Eh sì, sì, poi vediamo, adesso ci organizziamo, e sicuramente questa è la puntata dello speciale di Natale. Roberto, sempre anche a te tanti auguri di buone feste, buon Natale, se ovviamente per te il Natale ha un'importanza, a te e a tutte le persone che ti sono vicine, poi insomma, spero che passiate momenti sereni. E io allora permettimi innanzitutto di fare il buon Natale a te e ai miei colleghi di Sventura o di Ventura, questo lo vedremo, e a tutti coloro che ci hanno ascoltato. Questo è stato un anno particolare, anche impegnativo, a volte difficile, e insomma mi auguro che con le varie trasmissioni, queste e tutte le altre, vi abbiamo tenuto un po' di compagnia, e proveremo a farlo anche l'anno prossimo, quindi spero che apprezziate insomma questa nostra cosa, che comunque è anche un divertimento per noi, ovviamente. Quindi ancora grazie ed auguri. Bene, bene ragazzi, quindi vi ricordo che domani mattina c'è il Leo Varghion con il Mattino Alloro in podcast, e che sabato mattina, quindi durante il giorno di Natale, dalle 10.30 alle 12.30, ci facciamo proprio gli auguri di Natale con una live, io e Michela, e magari facciamo delle telefonatine veloci a tutti, insomma, quelli di Runtime che vogliono magari fare un piccolo saluto, giusto per passare ovviamente quei due ore per raccontarci un po', insomma, quello che è stato il Natale. E poi che il 31 dicembre, vi ricordo, dalle 22.30 in poi c'è la diretta di Capodanno, così come oramai è diventata tradizione, e poi dopo quello che succederà durante la prossima settimana con quelli, i programmi che andranno live o meno, lo decidiamo poi, insomma. Detto questo, io vi faccio tanti auguri, tante feste a voi, a tutti quanti, tutti i vostri cari, passate appunto momenti sereni, se avete dei bambini fateli divertire, fateli contenti almeno il giorno di Natale, perché come ha detto Roberto sono periodi difficili, lo sono stati e probabilmente ancora lo saranno per un po', e quindi insomma cerchiamo di raccoglierci nei nostri momenti, questi momenti in cui siamo insieme, ci divertiamo e diciamo cazzate, ciucciamo le zinne alle Barbie. Buon Natale a tutti, ciao. Buon Natale, ciao. Ciao.